lentamente. Vedi di guardare le spalle, soprattutto le scelte, a pezzi, e soprattutto cosa nostra, noi fattori di nulla, tutto culi, tira su, gioie divine, gioie di riflessi, giochi. Squadre, neanche te ne accorgi, ti sei accorto che ho fatto le squadre mica da po', e poi dicono chi ha il coltello dalla parte del manico, ma poi dice boh, facciamo un poster, dai, che si vede la gigantografia, viene bene soprattutto quando bevi il latte fresco alla centrale della mattina, alla centrale della rovina, alla centrale della soppina, si mette sdraiata. È il naso pieno di abitudini. Mi dispiace per il tuo tavolo che si arrotola così. Il basso non si arrotola. Ci saranno mille modi di uscire fuori da questa finestra, ma non c'è modo di uscire dal riflesso. La cabeza piena di cavalli. Quando, non so signore, ne parlano tutti ormai, anche al telegiornale, non c'è limite al pudore, guardami nel colore fin quando puoi.